sentire da più tardi, Domenico. Ciao Domenico, alla prossima, più tardi se coincide. Ciao Domenico, ciao. Sì, io sono qua. Come a girare la RAI se la sta volando? Io ho guardato, però sta chiamando le 5, ciao su. Ripeto, ve l'avevo già detto, come trovo dalla regione. illustri, ma sono fatti mio. E poi le sto provando tutte, e poi quel primo che mi chiama da una parte dall'altra, anche quelle ex principali, sempre in attesa, dico martini di là e ancora niente risposta. Va bene, noi facciamo tre domande e poi vediamo un po', perché tanto è inutile che le domande vogliamo fatte, se no la cosa è grigia. Non neanche voglio la verità. Neanche io, non pensare non sono in forma, tale radio, mi viene sonno, sono stanco, un bel. E domani dice che c'è un'altra giornata di merda, speriamo di no. Senso. Pioggia, non mi sto facendo combinare niente, arriviamo a fine settimana che mi devo spaccare il culo. Tutto lì, capito? Ho dei programmi che devo rispettare, sono indietro ancora con la pulizia degli impianti, taglio erba, verniciature, messa in sicurezza, eccetera, e domani c'ho nuovamente dei controlli e quelli scrivono, capito? Quelli scrivono, ma io non mi posso fare nulla. Non posso costringere gente a lavorare sotto l'acqua o a fare che cosa. Non riesco a togliere i piedi, se non cambia il tempo non riesco a togliere i piedi. E beh, ci credo, Otto. E d'altronde non si può mai costringere l'operaio a lavorare sotto l'acqua perché non esiste. Capito? Poi tu sei anche stanco perché hai fatto il rientro e è massacrante, ci credo, è massacrante perché è massacrante per tanti punti di vista, perché non riesce a concludere niente, né tale tempo, né fare pulizia delle impianti, né niente, e poi magari si accavallano tutte queste cose che poi tra stanchezza e tutto uno sta anche un po' maluccio, diciamo, eh. Quello è il problema. Quello è il problema. Poi ho preso un po' di umidità stamattina, c'era un po' di freddo, quindi non sono per niente in forma. Una sigaretta, poi vediamo se la signora mi chiama a cenare. Andiamo a cenare, se no è che ne so. Ma se sta come riposarsi, perché poi la giornata seguente è dura, il riposo ci vuole, sempre detto, il riposo è utile per il fisico, per tutto, poi tu devi stare in treno, stai prendendo la mattina, il freddo, la maletta. Fa freddo, me l'ho mangiato, ma il freddo c'è, non pensavo ci fosse tutto questo freddo, capito? Anche la sera non è stabile la giornata, io sono in stanza sempre 18-19 gradi, mentre le settimane precedenti avevo 23-24 gradi, 22, quindi la temperatura è bassa anche a casa, capito? Sì, il clima sta essendo basso, perché anche a casa si abbassa, ma non sono più le giornate di una volta, ma il clima sta cambiando, guarda, in tutto e per tutto. E la felice qua, perché hanno detto che avremo fino a venerdì, sono dei cicloni che stanno passando, fino a venerdì avremo sempre queste temperature basse, acqua e via dicendo. Quella è una grande rottura. È una grande rottura perché non riesci a concludere niente né lavoro né fuori dal lavoro. Capito? Non puoi uscire, non puoi fare. Per questo stai in giro, vendeva, no. Non è cosa per me. No, ma non esiste proprio. Io oggi stavo rientrando a Sandrio, non so se tu l'hai sentito. Nel rettilineo di dove adesso non mi ricordo, vicino a l'impera della Porta Torres, ha visto un brutto incidente, questo che ha inculato una macchina da dietro, cioè ma se poi inculare una macchina da dietro, chissà quanto stava per correre con questa persona qua. Perché si pone a camminare, parlano tutti esperti, poi frenano e partirà la macchina e si incasina, hai capito? Dove dove va? Purtroppo è così, alto. Perché la fretta è male consigliera, purtroppo, molta gente distratta, per arrivare 5 minuti prima, fanno danni a se stessi, agli altri soprattutto, e non va bene. E uno quando si alza prima, va prima ai posti, è più tranquillo. che la gente debba partire a... debba partire fretta, dai. Vabbè, è quello che va. Lasciamo le fare, ce la fanno peggio. Quello sì, quello sì. Ma mi sarà profitto questa una carichetta e poi se c'è qualcuno va bene, se no si chiudono i battiti e se ne riparano male. Qui c'è il sindaco di Ploaghe, buonasera. Ciao Claudio. Ciao Giuseppe, buonasera anche a te. Ciao Giuseppe. Vice sindaco di Ploaghe, ma che problemi c'hai? Dimmi che problemi c'hai, che te li risolvo io. Sì, se mi vuoi far vedere cosa mi risolvi. Oi, dimmi che problemi c'hai, Antonio Falchetto, te li risolvo io, ti faccio un assegno, mi faccio un po' di galera, però tu stai tranquillo, tu c'hai soldi, io me ne vado in galera, non c'è problema. Aspetti, non ti offrare a te, questi sono bellissimi. Che ti fa un segnale di mani che Giuseppe, che problema c'è? Hai tutto risolto, capite? Fa un segnale di mani che fa Giuseppe. Così è più fresco, rimane più fresco. Quando va in banca a incassarlo, se lo puoi direttamente in frigorifero. A voi lui. Tanto già è poco che ci ho passato per colpa di qualcuno che mi ha coinvolto, Claudia. Ehi Giuseppe, passato, te l'ho detto di persona, pensa al presente adesso, a tutti lì. Bisogna pensare al presente, no? Saremo partiti, occhi aperti, e vedrai che le cose piano piano già si sistemano. Non dobbiamo essere pessimisti, no? E tutti insieme, chi ha lavoro come me, come tanti altri, viva nell'oro. Non passano più, no Giuseppe, non passano più. Io mi sto aspettando questo IMU, questa zangata, a cazzo non ci voleva, porca miseria. Non ti stai a comparare a voi di tassa, e mi sono venuta, ma non così tranquillo. Claudio, a proposito di questa cosa qua della casa, se uno ha 78 metri quadri di casa, quanto dovrebbe pagare, lo sai? Non avevi neanche 100 euro, Giuseppe. Non arrivi neanche a 100 euro, ma si parla anche di nucleo familiare, no, ancora non si comprendono i reti. Sta volando solo i numeri per me, ciao Flavio, non si deve ascoltare. Sta volando solo i numeri, guarda, per me, ancora non si sa niente. Io spero che ci sia qualcosa più di concreto e che si riesca a capire veramente quanto dobbiamo pagare, perché tra l'altro poi, a quanto si dice, lo devi compilare tu. L'aliquota la devi fare tu, i conti la devi fare tu, ma se uno non è buono a fare i conti, non conosce l'aliquota, come le persone anziane, vorrei capire che cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo pagare, ma cosa hai detto Flavio, vieni lì. Ecco, va bene, buonasera, buonasera a tutti, se ci vieni, ti porto per favore. No, ho fatto dalle 7 di stamattina alle 6 del pomeriggio, io perché se avevo rientro, quando ci rientro non vengo neanche a pranzo, perché se torno a pranzo, allora non potrò rientro, capito? A chi mi chiama mai io. E quindi sono stanco, morto, adesso vado a cenare, poi se c'è qualcuno, giusto così, anche da ascoltare, fare due chiacchiere, entro, se no spengo tutto e me ne vado a nanna. A chi domani che è rimasta la battaglia, tu perché a che ora entri adesso alle 10? Infatti io entro alle 10, poi entro alle 6 della mattina. Ma tu mi vediamo, due giorni a riposo, per l'hotel. Vabbè, c'è anche solo per tardi, sono costretto qua a chiudere tutto, a spegnere tutto. E vi ho sentito. Ciao a tutti, dai, un proseguo a Claudio, un proseguo anche a tutti gli altri amici che sono con te. Ciao, buonanotte. Ciao Fra, grazie per essere stato a salutare, compagnia di Falchetto, Giuseppe Avanti Falchetto. Grazie. auguro di serata e buon tutto. Vai Giuseppe. Ciao Fra, buona serata e buon tutto e buon rientro quando lo farai. Avanti Fra. Ehi, va bene, dai, io sto andando a mangiare qualcosa, Giuseppe. Vi saluto, ciao Falco, ciao Giuseppe. Seguici che ci sentiamo dopo, altrimenti tutto alla prossima. A frappè, vai con te. Ehi, signora, dai, buona carica, buon tutto, seguici da più dopo, dai. Devo approfitto anch'io, Giuseppe, per fare una carichetta anch'io e se ci sia più dopo. Ciao a tutti. Ciao a tutti e due, buona carica, buon tutto, dai, ci sentiamo dopo, dai. Fate tranquilli, buona carica a tutti e due. A dopo, ciao. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe, dopo ciao. Hola. Su internet, so. Ah. Ma c'è un computer su internet. Davvero? No. Fa Giuseppe. Adesso mi riesco. Ho mangiato due cose, due arance. Adesso sono dopo. Ho capito. E anch'io adesso mangerò un arancio e poi a nanna. Nanna, stacco. Un po' annoiato sono. No, perché no. Già ne manco in coso, in radio, però mi dai, ho capito. Magari, per rilassarti, infatti anch'io mi guardo internet, adesso 5 minuti se mi ha scritto qualcuno poi mi dirai anche perché sono stanco. No, avevo capito su internet che avevi preso il computer. No. Ho detto cazzo all'anima, cazzo di quanto ha fatto veloce. Lo vedi già? Cosa dice? Lo vedi che adesso, mettendolo in questa posizione così, non sta fischiando. Allora c'è qualche cosa che non va, a ferro c'hai di vicino. Roba di ferro, com'è il mobile? Cos'è, una scaffalata del ferro, cos'è? Ah, è un mobile, non un mobile normale, capito? In legno, messo, invece di essere dritto, di traverso, capito? Capito. C'era come le donne, già, quando le viene marchese, anche quando le viene qualche accidente. Cava. C'è qualcuno su palco? Oh! Ehi, Leonci, andatene. Se ne è andato via. No, ero... diciamo, sono andato un attimo, gli ho passato il mucio perché... sporco. Sto scendendo la candarella. E cappa. Tu basta che te lo soffiasse. No, ma è venuto un sannuto, hai capito? È così. Cappa. Oh, Giuseppe. Beh, non si è sentito nessuno. Era Marchetto, Claudio, che sono andati a fare carica, ha detto che se li riprendevano dopo. Ehi, io insomma se ce la farò perché sono molto stanco. Oggi ho fatto un bel di roba. Ho fatto troppa roba, oltre a quello che potevo fare ho fatto. Tanto non mi ha tornato lo scontrino quella lì. Mi doveva tornare lo scontrino, dove ho preso i regali, perché ne mancavano due e me li doveva dare la prossima volta. E invece non me ne ha durato. Adesso domani tocca di nuovo a tornare lì a protestare, mamma mia, sono cose così antipatiche. Mi ha giudito, mi ha scoperto, mi ha detto sì, un attimo che io torno, un cavolo mi ha tornato. Vabbè, già, con calma, ci vai e le tiri le orecchie. Sì, diciamo una cosa, che adesso se non se lo ritrova dice che me l'ha tornato, capito? Ci trovano sempre queste... Ma, era anche una piada perché c'era gente. cose. Non mi regali a me quella che protestava perché aveva fretta, la toccava. Una cosa, se si mette a dire che ha fretta, si mette troppo le scatole e basta, adesso la fine è fare una cosa e poi far fare l'altra. Ma intanto ce n'è una nuova. Poi sono dei clienti che sono molto esigenti e li fanno sbagliare, capito? Quando fanno così li fanno sbagliare, perché cercano di fare in fretta e poi la fretta è sempre il tempo che trovo. Lo bisogna fare con calma, tranquillo. Beh Giuseppe, mi conta, già. Ma domani lavori? No, domani no. Riposa? Abagaba, wow, wow, wow. Abagaba, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Beh, ok. Lucari. Ah, Lucariello, ma cosa Lucariello? Non riconosce le modulazioni, Gianni, ma quando mai? Beh, la camuffa, la modulazione. Io già le conosco bene, ma lo fa Luca così. E allora Gianni Di Pirro, ciao Giuseppe. Ciao Antonio Grotte, buonasera. Dimmi Grotte. Bene. Calma. Sto ascoltando, stavo uscendo dal parcheggio. Sono in zona tua, dai. In zona mia, sì. Cosa ci fai? Via. Giusto. No, sto facendo il giro, devo andare da una amico un attimino a fotografare una cosa. Vabbè. Ma sai dove ho fotografato loro? Eh? Eccomici qui. Un resto di macchia abbiamo trovato, l'abbiamo preso in mano. Ed era fuori, l'abbiamo fatto la fotografia, è troppo bello. A farogero, ma con che macchina? Sempre con quella analogica? No, con la digitale di un'amica mia, infatti ce l'ha lì, io gli ho detto Vino, ricordi mi mandavo, ho qua, è troppo bello da trovare. L'ha preso in mano, io gliel'ho fotografato in primo piano, per confuso tu fuori, guarda, troppo bello, poi l'abbiamo liberato. Vero, ricorda che c'è una, come si dice, un concorso fotografico alla Nuova Sardegna, c'è anche un bel premio, eh. Bueno. A Farogia, anzi ce ne sono due, uno che è istituito Voce Amica, che fotografa la solitudine, e poi c'è un altro della Nuova Sardegna. Come te, ma cosa c'è? La Nuova Sardegna mi sembra che abbia il caos, una cosa del genere. Sto, guarda, il prossimo acquisto che faccio mi compro una digitale. Ascolta, questa Lumix, l'hai mai sentita nominare? No, già sì, è un buon compromesso, è una sottomarca, credo, della Philips. Fa delle macchine che non sono reflex, però sono digitali, adesso non mi ricordo qual è il termine che definisce le non reflex digitali. Quegli ibridi, ho capito. Un ottimo compromesso, ho fatto degli ultimi servizi fotografici con una di quelle macchine lì. Guarda, con 150, 160, 170 euro al massimo te la cavi e ti esce davvero una bella macchina. Ma se l'ha presa da internet, no, se l'ha preso una forse che è reflex, questo amico mio, l'ha pagata oltre le 400, però l'ho fatta con quello, la fotografia, con quella lì, capricita, guarda, fa delle foto favolose, però come marca non l'avevo mai sentita, probabilmente adesso si è inserita nei digitali come marca. Sta andando, guarda, è una sottomarca, credo, proprio Sony, è una sottomarca della Sony, e sta andando davvero bene, però se devi spendere quella cifra lì, prenditi una casa, quella che ho io, che ha delle ottiche che sono ottime, però è, ad esempio la 1100D, che costa intorno, il corpo macchina costa intorno ai 450, e poi con altri 150 euro ti prendi un bell'obiettivo stabilizzato, luminoso, un 1855. Cosa c'ha Zai, secondo lì? Roger. Buono. Io l'ho preso la sua volta, ti ricordi che i polacchi le vendevano con le macchine fotografiche, non mi ricordo come si chiamano, poi le avevano le Zeiss. Sono nate da quelle la prima, diciamo la pulizia, scusami che sto parcheggiando un attimo. Giuseppe, non ti sento, non stai parlando. No, stava parlando Antonio Grotte e io lei non ascolto. Ma ho visto la portante andando, non vedi più. Ti ho visto la portante andando e non si sentiva la voce. Ma no, da me no. Basta, non pensavo fossi tu che non stavi uscendo. No? Antonio. Attenzione, Grotte. Ci sentiamo così. sta buona. Ciao, ciao. Cava gara. Ma c'è qualche nome canale di AC? C'è la parola. Chi è tu? No. Qualcuno lo sta facendo di radio, bu? Boh. Cabagava. Cava roce. Non fa, esci. Cazzo, che subito si rema, io. Sannino, buonasera. Lallino più russo chiamando. Ma ciao Gianni Capri 2. Che ciao Gianni, mi hai sentito? C'era uno che stava chiamando per la portante. Non so chi ci sia, comunque un saluto a tutti molto cordialmente. Allora ripetiamo, frequenza 27.75 della banda 11 metri. Ok, stiamo volando per voi, è la stazione Capri 2, operatore Gianni dal QTH di Nuoro. Rimetto il cambio all'amico carissimo Gianni Doppio Run. Papà Gianni, vabbè, sentite cambiare il cambio a te. E però mi stavano chiamando, non so se sentite, ma mi stavano chiamando, ho sentito a Capri 2, attenzione. Chi è che mi sta chiamando? Sì! Capri Runga, ho chiamato Aisha. Non lo capisco. E Giuseppe, mi sembra una buonasera anche a te, Giuseppe, ti rimetto il cambio, non dico non lo capisco che stanno volando, ho sentito solo che mi stava chiamando, e niente, Giuseppe Leoncino, ti rimetto il cambio, vai, e allora mi sembra che sei grosse anche così. Grosse è sceso dalla BM, si è alzato 5 minuti. Buonasera Gianni, Capri 2, tutto bene? Battagliando, già sto bene. Giuseppe, battagliando, sì. Per il lavoro, per la pagliotta, per la mia, hai capito, per lanciare, diciamo, il noleggio, stavo lavorando con mio figlio. Con cose, diciamo, stasera, siamo andati oltre, siamo per acquistare un pullman di quelli grandi. Stavo battagliando, l'ho detto, allora uscire fuori dai binari, riprendi già. Tu vuoi prendere lui? Che cazzo me lo vuole prendere, un aeroclasse da 60 posti già, però sì, anche in prezzo se lo possiamo acquistare perché ci vogliono comprare l'altro che è il nuovo di Plenka, però già, ti ho detto, quei consumi, quello, e senza in officina sono colpi, e no, non è una cosa, non è facile, già io non voglio bagnare il dito. E quello può come sicuro, la roba grande è cosa c'è di più, di tutto e per tutto. Gianni, come ti sta arrivando lì a Muros? Di radio, di San Chiaro, come sta arrivando? Ti sto provando la radio che ho preso da internet. Ok, come si chiama Gianni? Diciamo che in San Chiaro tu sei proprio incollato sul nord e in piedi. La radio già è appena già troppo eco, cioè, qui. E dunque bisogna invece passare nella grande. Appagata, guarda così. Pronto, però forse c'è un rumorino mio, poi una specie di roba del genere. No, va bene, riprendi, vieni avanti. E così l'ho abbassata. Sì, va benissimo, lo sai cos'è già. E questo baracchino, e quando passa una macchina, una moto, si sente nel coso, no? Vai alla grande, e non lo so, che mi stava chiamando per breccare, senza chiamare il Capri 2, che poi l'ho ascoltato o anche non bene. Ok, rimetto il tutto a Giuseppe e mi farà girare per gli altri. Cappa già, va bene. E io come ti sto arrivando lì a Muros, Gianni, Capri 2, cambio, vendo, scompro e scambio. E mi stai arrivando a 9.10. Devo precisare che questo baracchino come di gestione è ottimo perché riesco qui a ascoltare anche un poco che negli altri apparati non lo ascoltavo, quindi non è la lancetta che generò, la proprio come si chiama il ricevitore che forse perché ha doppia conversione, questo mi trovi. Va benissimo, e quindi io le 9.10 se quando parla Claudio si esce fuori dal coro, lancetta, dalla scala, e quindi la caricatura va alla grande. pezzettino così piccolino. Perché io non mi bene, l'altro invece... Ho aggiunto e basta. Che cosa lo sai l'altro? No, no. Ok, quello che c'era in interrotto, in eccezione mi sembra. No, quella è stata colpa mia, una mia svista è stata. C'era l'RFG chiuso, già. Mi è sfuggito. Sto provando questo amplificatore di antenna, voglio vedere come mi arrivi, come senta. Prova già, aspetta un attimo, mettila. Già. Ok, speriamo che mi migliori almeno di 5 o 6 santiari. Ok, guarda come ti arrivo, vai. Dimmi dove la momento, ti fa arrivare 9,5 addirittura. E 6, 7, 8, va. Ok, là non lo farò a 9,5. Perché io non lo me la attacca. Ma vabbè, se non vedo. Ma poi dove? Via. Che prima? E già mi capire due dove? Dove eri? In FM, già. Ti sei abbassato? Come? Sì, perché se ho avuto già un rientro di RF appena. Pensavo che si era incendiato il baracchino già. Sì, ma a me la sapete, mi dispiacerebbe perché è una roba che ci tengo a meno più lei, mi convertì come diciamo, come dico sempre, no? Niente, ho avuto un rientro di RF. Sì, vabbè, ci sono. Adesso mi sono abolito già, mi senti liscio? Ma io ti sento. Posso essere anche tu lì, se mi ascoltate. E non ho come amplificatore già che nuovo, se diciamo che aumenta 3 santiari, e quindi già se non ho fatto, se non ho lontano, capito, se lo punto di quello. Non è proprio di giri. Ok, chi vuole entrare? Negativo, ma da giù la buia si affossa. E così già niente, questa roba, come stavo dicendo, stavamo contrattando stasera, capito, di una cifra, hai capito, di 30.000 euro di questo vero franchi, la 60, e con che parole lui sta cercando a fare. Degli altri proprio perché non le piace rischiare, già chi non rischia non rosica, naturalmente dovete farvi un conto, un calcolo e vedere se c'è il tanto per poterlo fare, perché se c'è il tanto ne vale la pena, già buttati, cosa vuoi che ti dica, però se non c'è il tanto, se c'è da rischiare solo, no, quello lì no. Thank you. sta già andando. Dimmi tutto. Allora, cosa ti devo dire? Niente, Ma perché quando Giuseppe che baracchia mi ha dato, o meno di 50 non li trovi. E adesso vediamo, Antone, adesso vediamo, perché già, tu lo sai, no? Che adesso questo lo mettiamo a riposo, lo mandiamo in pensione e utilizziamo quello, la Maranà, hai capito? La Maranà cipico, cococò, cucucù. Cioè, ma dove si è andato? A dove si è andato? Mi cococò, cucucù, ah, oh, oh, oh, oh, oh, valutati in trecca, la cosa bella. Chi è che mi ha messo a portarti a me? Ah, ma fatto non ti ha messo nessuno, ci siamo valutati in tre in pratica. Se ho sentito Gianni uno, Gianni l'altro. E Giuseppe sotto. Fatto un volontario, avanti Giuseppe. Cappa, ui ui ui, per carità, per carità. Comunque, Antonè, tante salute da... sera Città Mercato, come ha detto, salutami tanto con Pompolio. Sì, quello dell'Escopo, saluto anche a me, non c'è problema, l'ho visto anche stamattina. È venuto e mi ha detto, bravo, allora bravo, di nuovo ho impiattato tutto, già era ora. Ma non era quello dell'Escopo, era un altro amico. Ah, allora mi sono sbagliato. Salutami intanto quell'amico tuo che aiuta i televisori, che deve ancora ritornare il pezzo che io gli ho dato per aiutare quel televisore. Io il televisore non mi aggiusto. Quello che il televisore aveva aiutato era... quello che fratello era? L'alimentatore ce l'avevo io, se io ce l'ho messo non lo conosco. Puscia poco. Ma c'è di tal cosa, un corvo si sta mai capito, come mai? Se non si è la benzina. Ah! Ora che si è visto il corvo a Città Mercato, era senza benzina stamattina. Ma lo so, era a Città Mercato, ma non me l'ho visto, ma io già l'ho visto. Perché stamattina era parcheggiato perché casa sua, era senza benzina, era capito. L'ho visto stamattina tanto presto. Carità. Positivo, positivo. Sai che era una cosa che c'ha un malvagio, ma sarà difficile trovare meno di 50, non lo so. C'è un tassinatore al circolo e gli ho chiesto, c'è la minuta che 40-10. Non c'è un'offerta, Giuseppe, ci passi domani mattina o... tanto lui lo trovi sempre lì. Poi al limite, c'è quello lì, c'è un Texas. Non chiedi, e ti metti d'accordo nel gioco. Vittore. Sagittario. Da chi? Quale circolo? Ma il suo circolo, quello di fronte all'edicola, al centro storico. Oh no, non lo conosco io. Solo sei andato con me un giorno di pace, sei andato. Ma ti ci porto io, così ci parli e... Non conosci altre persone. Adesso non ce lo presenta Antonio. Vabbè, ci parli comunque. Mi ha due baracchini. Il ricevitore l'ha già venduto, gli è rimasto 5,50, quello me lo pago io adesso. Ci sono rimasti due baracchini. Un Intec 40-10 e un Texas Lafayette 40 canali. Con quello che c'era uguale cosa. Antonio... come si dice? Antonio Bronte. Ma salva. HF non ne ha l'HF, c'è solamente due lineari, 5,50 è un altro lineare grosso, c'è. Cioè. avrei 1500 euro, ce la sarei scritto. Eccolo, per quello conviene come comprare un 140, 100 euro che non esca trasmissione, per dire. Però c'è la ricezione e c'è tutte le bande che vuoi. Infatti manca il V e la U in automatico. Il discorso è quello, già. Se vuoi ascoltare un buon ricevitore che ascolti tutto, AM, FM larga, FM stretta, eccetera, eccetera, come bande laterali, mi spendo intorno ai 1000 euro. Di quando voi trovi, bello, come si vede, a meno che non compri qualcosa a seconda mano, allora ti devi accontentare, ma per me no, io la penso così. A me 500 metri devo decidere 7000 da voi. Ciao capo. Vai. Sto ascoltando. Comprate barchini, che va meglio. Cos'è convinto uno di poter comprare chissà che cosa a 100 euro? 100 euro compri per 100 euro. E c'era 7000 che c'ho io della ICO. Ho pagato quasi 3 milioni. Allora, adesso è valutato non meno di 700 euro. Quindi, immagini già di più. Dalla lira all'euro. Ci metto in corto, ragazzi, una roba scherzata. Se voi prendete giocattoli, allora va bene, giocattoli nel senso, io parlo di roba piccola, non roba scadente, un portatilino, una cosa così, allora va bene. Quando parliamo di ricevitori d'alta classe ci vogliono dinero. Vabbè, comunque, buonasera Gianni Capridue, ciao Gianni, ho più lungo Antonello e Giuseppe. Io sto ascoltando già poc'anzi. E io ciao Claudio. Ma c'è anche l'UPT, quello che ho avuto io costava sul milione e due quando c'erano le lire, ed era un portatile, infatti corto, però aveva la banda laterale, aveva tutto. Ma si parla di scrittori, ci vogliono soldi. Vittorio, perché mi serve, ma è sempre spento, non ho continuato. Vabbè, comunque, questa modulazione vi piace, sì? Salone, salone, buonasera. Ciao Luca, sono tu. Mi sentite con i bolloni in mano? Sì. Cosa c'hai, bolloni? Radio, mi senti? Sì, magnificamente bene. Tu mi senti? Ti ascolto, guarda in chiasso qua, perché lo so cazzo di ecco, ecco. Cioè tu pensa che ho le cuffie lontane, pensa ma ti hanno verificato questa cosa, va. Vabbè, io con questo sono un baracchino e ti sento benissimo, non c'è problema. Se ho voluto la sera via essere nei baracchini, mia mano non li voglio più. Non ciò che porta niente. Questo è il Simba SSB40, Gianni Capridue, stazione base di vecchia generazione, col tunnel più 2. Faccio la clausola, ho sentito. Allora, è proprio per fargli di non dire, mi viene attaccato. Un bel baracchino, c'è Leone Pot dell'epoca, un bel baracchino, grazie, io sono contento. tubo belli appaditi, però non c'ho posto per mettere, se no hai visto la collezione Mario Vatti Curio Piano Piano, un euro me l'avrei comprato, mi piacciono tutti quelli, non tutti, ce ne sono che non mi piacciono, è vero, esteticamente, però la maggior parte è quelle stazioni in base mi piace. Oh. Aspetta, siamo in KP2, mi ascolti? Come no, ti ascolto benissimo, buonasera, avanti. E diciamo che sei proprio alla linea, dove benissimo i numeri, Claudio, e Claudio le sono fatto un video, questo è molto generoso. Questo è generoso veramente, perché dicevo che è molto scala, molto stretta. È positivo, dai, qua Tullio, Marra Pesante, zona industriale a Predanietta. Volevo sapere come stai ascoltando Gianni, avanti capa. 9.30, 9.30, sto ascoltando un po' più su Giulio. Scala. È positivo, dai, anche tu quasi fondo scala, avanti amico Claudio, capa. Tullio, su Tullio, sono male, niente, se mi vai guardando in qualche altro diciamo a Tullio. Ma negativo qua, Parchetto, Tullio qua, coordinate e prenda niente, dai, direzione tra un po' Alighiero, capa. La patente, la rovina soleata del suo cambio. Patente, la paleata su Sanno 1900. Va bene. Perché il cibo non ti piace già? È un cane. Bello. Sì, una bella modulazione. Ah, un cane Simba. No, Simba è l'SB40, quello che ho fatto la SBE. Allora, già è bello grande, bello tosto, con un bel manopolone centrale. Questo c'ha 23 canali più 23 canali. 23 più 23 nasce così. Vabbè, boh. Che praticamente sono 46 canali. Va bene. Ma il microfono è... ho attaccato il panel più 2, sto uscendo col più 2. Già va bene. No, già, a me me ne stanno mandando a Cagliari, io c'ho un carissimo amico che ha fatto il militare con me nel 79, ed è quello che mi ha mandato il tranne più 2 e altre cose, ma siccome ne aveva tante di radio, di baracchini, base, eccetera, e quindi ci siamo visti a Cagliari, è venuto qua a Cagliari, sono andato a Cagliari. E mi ha detto che mi rimandava piano piano, però mi è passato 2 mesi che non mi ha telefonato né nulla. La sera alle 2:30 è arrivata anche un scartolone, infatti mi sono anche arrivato, ho detto che ho fatto sempre ordinando roba, e a me non mi dice niente. Invece ho visto il mittente e ho detto, ma questo è un pazzo, ma poi ce ne sono 4 dentro, 4. Ce ne sono 2 in terra, figurati, non c'ho posto di niente. Aspettate, voglio parlare io con Claudio, dimmi le altre marche, Claudio. E poi ti innamori. Io dimmelo che sono dei carburanti, anche se non ce li ho io, di quelli degli anni 70 sono. Guarda, il più vecchio è... se te lo dico poi mi cambia la sedia. Il più vecchio è un Catalina II del 1968, che c'ha il nylon, c'è ancora la carta attaccata. Che è quello senza Smitter, cosa fa il Vecnovi? No, questa è la versione con lo Smitter. Ah, perché Catalina 2, chiama Catalina 2, c'è la verba, ma è che bella rosa verde K. Questa è base però, sono 4 basi, di cui c'è un Simba che è di 1.940, poi c'è questo Catalina 2 e poi devo dare una notizia brutta, c'è un Endgame terzo base che io non ho mai visto, che è una cosa quarto e il quinto. Questo è un ID, terzo base. Base che posso dire che quanto è quello di, della buonanima di Mario Mao, quanto è il console prima. E poi c'è un altro sommercato, tanto per cambiare, che fortunatamente non ce l'ho, no? Che praticamente Gianni è quello che ha 40 canali con le bande laterali, che il 1826 io non lo conoscevo lo stesso. Ok, neanche io, quello lì proprio, gli altri che mi hai elencato, anche il Cattalina con lo Smith non lo conosco. Andavo con lui 15 giorni, 10 giorni, poi completo, vai. Non mi manca niente a me, gli apparati diciamo essenziali ce li ho. Non ho posto, se no mi sarebbe piaciuto avere qualche apparato, non dico tantissimo, ma qualche apparato di quelli che mi piacevano di più degli anni 70-80 mi piacerebbe avere. L'ordine la fa il mio posto, perché come mi cazzo c'è una cazzata. Diciamo che ormai basta, ma sei a letto anche perché poi... Il catalogo, ma ho acquistato il catalogo. Ma perché mi ero invaghito per la fisarmonica elettronica, era appena uscita e hai capito che se ne avevi puntata in cuore, se no anche qualche altro apparato quello l'avrei avuto, ma tutto non si può avere, chiuse e riprendi, per poi non c'è ancora, per poi la riprendi, ma no, ma in parcheggio sei. Sento, oh Claudio, mi senti Claudio? Significa ci mettiamo, quando mi dai i consigli tu, io li tengo proprio in mente e faccio quello che mi dici tu, è vero? È vero. Lascialo perdere Antonello, quello è l'amico del corvo, capito? È l'amico del corvo, è quello che mangia antenne, capito? Ma è strano. È stato diviso da lì. Vicino a Gavia. Questo va sempre a mettersi giù botto. Attaccato lo giù botto, questo va, lo segno, questo di Lugoto. Ehi, è vero, già. Botto, chiamalo giù botto, che sono spolverino, ogni arredo la salì via. Se lui addirittura sono uscito col piumino, io che sono mese di aprile, ed era un questo spolverino, che non si sa se era azzurro, nieto o pinginoso, ma la prima di mezzo era tra il bingo e il blu, sicuramente. Ciao Fabrizio, buonasera. Ciao a tutti, che vi sto ascoltando, io Fucazione stasera, non peggio dell'altro, io. Ma Fucazione? Io in camera di Fucazione, caro, io facciamoci serie, ancora mi ora ci sta dicendo 50 di una persona, io sono facendo serie. E se non lo puoi fare Fabrizio, ma ci sono io, guarda, sei tranquillissimo. Intanto io da quando sono entrato anche nei vici mi sono rovinato. Che puoi stare dietro tu, addirittura in Europa, ma tu ti sei convertito a gay, quindi cos'è che vuoi? No, non mi sono convertito, io sono gay. Ecco, quindi, scusa, io pensavo che già la conversione era una cosa così, una promessa, capito? Invece se lo sei, quindi non c'è prova di provare la mano con Antonello Pomponio, che è amico del corvo. No, io sono tutto mondo di Genova. Claudio, fatti raccontare a proposito del corvo, cosa del televisore che doveva riparare, cosa ha fatto? Il corvo, a me mi basta che l'ho visto la prima volta alla fiera di Genova, smontavo le viti del così, del copricchiere radio con le unghie, cazzo. Cioè aveva le unghie lunghe, nere nere, non si sa se era un cacciavite, che cos'era. Lei cosa è stato, ho avuto culo però, si è preso un sacco di colori di montatori di computer, le ha pagate anche la cazzata, poi già, se li va a provare, che quando è arrivato a casa erano 4 o 5, ne sono rimaste solo 2. Va bene, dai. Gianni Caprilua riprimi, fai girare poi Gianni doppio ruggio, se no si addormenta. Allora, sindaci seguimi nel catalogo, Gianni. Catalogo, qua c'è fatta uno, non so se tratta con quel microfono, quindi alla sinistra c'è ruggio, poi c'è due colpi, qui non ricordo bene perché è in via Alfonero, c'è due strumenti che poi mi hanno preso. Di varie riviste dell'Ari Gianni. Se ti interessa carta, te lo metto numero per numero, ti si rimborsa il chiuso della casa mia. Ce ne sono ancora, figurati, manco aperte le ho, ancora incartate. Anche gli ultimi numeri che sono arrivati da gennaio adesso, poi tutti creati. Avanti, prego. Buonasera Claudio, buonasera anche agli altri amici. Antonio Bombo a questa parte. Ciao Anto, buonasera, ben ascoltato. Oh, va bene. Giuseppe, riprendi, vai per Luca e per Antonello, vai, facciamo girare. Ciao Antonio Bombo, buonasera. Adesso stavo guardando, c'ero anch'io quel giornale dove ci sono tutti quanti gli apparati e tutto quanto. A chi interessa? Luca, ti interessa a te? Vabbè, ciao Fabri, scusa se non ti ho salutato. Scusami, ti scuso. Io da giocata di casa la moto, di pezzi ci sei. Io voglio un casale da di giori, caro gravù. Cazzo, andiamo su 15, il canale di Torre Cioppeo, quando entravi c'era la vendita, c'era tra Torre, Torino Cavazzacchi, Piero e l'altro chi era, non me la mente, erano 5 o 5, vedi Maria troppo bello. La casba. Ho sentito come sembrate sentire a Sandro, a Porto Torre. Cosa hai sentito, Anto? Tratto che c'è Sandro a Porto Torre. Ma non c'entra niente di Sandro a Porto Torre, se non ho capito. Lui deve chiedere permesso per entrare, non è che io non l'ho sentito. Bravo, adesso, non è che mi è sembrato. Non lo so, io non ho sentito niente, vediamo se è lui. Ho citato il garaggio, faccio il reo. Se è venuto, sei. Buonasera, signori. Non mi vedi, salutami. Chi è lui? Già lo costruire a poco, oggi puoi salutare. Per carità. Guarda che ti avevo accoppiato. Ma cosa pensi che c'ho gli orecchi di gomma come te? Ho preso un sacco là. Ho detto, quando mi vedi saluta, lui non mi so. Dai, salutoni qui dalla città del grande Carraggio. Ma hai capito caro, l'ho visto io oggi. Ah, l'hai visto tu Bombolino a San Rotiglio? Lui è sempre in giro, per forza. Ciao Sandri, buonasera, ben ascoltato. Gianni doppio rutto, riprendi. Io vai. Ciao Sandro, spero che mi ascolti. Un po' così ti ascolto, cioè, come mai, cosa hai fatto? Mi ascolti così perché... Aspetta che provo, basta caricare qualcosa. Male, c'ho l'amplificatore da 100 watt attaccato. Adesso è migliorato, va. Adesso è più limpido, poc'anzi ti faceva un po' compresso. E sta saturando di nuovo, già. Ehi, deve essere, c'è troppo entrato. Tieni un basso, infatti anche a me mi sembrava il tubo. Vabbè che sta là di un baracchino, dici. E che a noi è capito dove sto baracchino? Allora, comunque saluto Antonio Bombo, buonasera e anche salvo di portatore. Io ho qua il tipo elettronica, 1 maggio 1974, e c'è nella copertina principale ci sono tutti gli Zodiac, anche il P, quello che c'hai tu con l'altra parlata da fondo. Però poi che sfoglio le carte di codice pubblica c'è il PC Simba e TTP, la nuova versione MKB, se torno in TV, se c'è un microfono tipo, mi sembra che può essere l'espande 500 della FAM, è possibile qua? Possibile perché in quell'anno lì c'era la spanda 500. corretto come microfono, se quello che dico io è perché ne aveva fatto un paio di modelli, io lo sto usando molto anni più due, mi devo mandare anche quello là a Palma, invece non me l'ha mandato, che è morto. Ma questo c'è il microfono normale, me l'ha mandato nuovo nuovo, che poi sono tutti uguali, c'è un microfono normale, lo metto al corso del primo, che vedere se va bene. Ehi, ma tanto anche i baracchini, mi sto così per aprire, per farli andare, però siccome funzionano tutti, quindi adesso farò un altro lavoro e vediamo un pochino. Fabri, riprendita. Ciao Fabri. Quindi un po' toccato, Ma se le 5-7. Ciao. Ti dico soltanto. Mamma mia. Su quella radio a pensare che me ne mangio le palle, se non andava bene quando l'avevi tirata quella radio, ma portata qua la tenuta più di un mese con la M908, era una schioppettata, usciva veramente molto bene. Dimmi Antonio Bombolo, anche due le domande, vai. Ma quegli apparecchi lì sono nuovi, sono? Nuovissimi, di pacca, sono avanti di magazzino degli anni 80 che aveva lui, sono nuovissimi. Uno addirittura è col nylon, praticamente il cellofanato. Questo che sto usando io adesso è in buonissime condizioni, nuovo. Ma li ha proprio spolverati, puliti e basta. Sono buoni, sono nuovi. Certamente no, non ci hanno mai modulato, non si sa mai. Ma lui no, non è un cibito, non ci ha mai modulato. È un rivenditore. Lui è grande, più grande di me. Ha chiuso l'attività già da tantissimi anni perché praticamente è un mio collega, è diventato capito a Cagliari, però a Cagliari lavora nella stessa società che sono io, però a Cagliari, e quindi quando è entrato lì ha chiuso l'attività e ci aveva un bel residuo di magazzino di queste varie vecchie. Adesso domani le chiedo appunto se c'era quel baracchino veicolare e microfoni, capito? Più due me l'ha mandato lui, era dentro la scatola nuovo. Poi se mi ha mandato devo averne l'M500, l'M600, l'M300, quelli me ne ha mandati tutti lui, capite? Vabbè, comunque va bene così. A chi tocca? Giuseppe, riprendi e fai girare. Papà, dove tu che sei tutti questi amici che ti vogliono così bene qua? Pensa un po' a Giuseppe a vedere qualche volta che almeno, non dico sempre, però qualche volta almeno usciamo come la torre di controllo. Tu non pensare che stai facendo male, Giuseppe? Lì bisogna innanzitutto mettere una buona antenna, e anche con un baracchino normale, con un buon microfono, esci benissimo. E questi sono regali, Giuseppe, io ti ho capito a te, questi sono dei regali dove io con i regali ci vado molto, capito? Posso dare una cosa mia, però i regali ci tengo moltissimo. Tra l'altro ti ripeto, questo è un amico e se viene a Sassari mi telefona e viene qua a pranzo o a cena, non vede le radio, fatto lì si presenta l'altro. No, non è quello, perché voglio dire, ho messo aperto un attimino sulla scheda. Questa scheda di lui c'è la scheda della scheda di lui, c'è la mela unit che praticamente la scheda dove ci sono i finali, no? Lui dice un disintegrato, non so se è confuso, non so come ha fatto arrivare, che è quello lì, non ha fatto dei controlli. Ha fatto dei controlli, non lo so, però per dirti che logicamente, diciamo, è una macchina, quella lì di vecchia generazione, degli anni 80, quindi i componenti, i vari componenti, diciamo, della scheda lì sono talmente, diciamo, compatti, diciamo, uno quasi attaccato all'altro, in proporzione, diciamo, alla nuova tecnologia, alle nuove schede, logicamente lì c'è da lavorare al doppio, diciamo. Ma mi fanno uno sguardo, come è stato facendo un po', non so se c'è determinato, non lo so, un po', perché un colpo non sono come c'è la mani, magari non è niente, però quindi come si può stare, praticamente va in trasmissione, non sta trasmettendo. Apri, quell'integrato lui da monta non c'è più di 4 giorni, infatti la cosa che ti dà il coso più importante. E quindi quando li ha trovato me lo cerco su internet, vediamo cosa fa. Comprate la cazzata, l'ho comprato io per le GPT 4 turni, l'M540-11BC, che poi corrisponde per l'H, non mi ricordo cosa, ne ho due di GPT, li metto in parallelo. In pratica quando si brucia mi manda l'inecita protezione, non mi dà la comunicazione di ricezione, capito? Per quello che sto dicendo, infatti quando mi sembrava familiare qualcosa ieri sera, ho controllato la moto, avevo GPT 4 giorni, quindi in pratica se quando una volta che tu cambi con integrato, si dovrebbe rinnovare quel difetto di salire a passante a fondo scala. E quindi penso che dovrebbe cambiare qualche cosa, poi controllare tutti quei transistor che ci sono più in giù. C'è una spintura, sono quasi tutti senza coso, se è notato bene, senza dissipatore, ci sono parecchi, c'è stato 08 e poi altre cose, quindi sono stato solo a cambiare. Ho visto che è stato operato parecchio e l'ho disandato, se è notato bene, quindi a uno deve farle, ha fatto il disegnino, questo uno già controllato, gli aveva già fatto in pratica quanto ci voleva più o meno, se va a rompere tutto, e non ho convenuto, non l'ha fatto, però mi ha dato quel manuale di istruzioni che c'hai e puoi tranquillamente lavorarci adesso, capito? Non voglio ora per il culo riscaricato, no? Se non lo chiedo, però qui verso quello che lui fa in trasmissione con quella roba, quindi fa direttamente in trasmissione, quindi rimane commutato, me la seguite e capire cosa sta succedendo, se è quello, vabbè, diciamo che sia quello. Però quando va in trasmissione non c'è nessun assorbimento, quindi questo mi fa pensare che ci sia anche quel finale blu, qualche finale bruciato, qualche finale, qualcosa, boh. No, in tradizione non ci va perché non trattate moltissimi, non c'entra niente, i fiori sono buoni, quelli grandi. I 7908 e gli altri bisogna che ti controlli, capito? Ha fatto un disegno, non già l'hai visto, quindi alla fine staccare quell'integrato lì e cambiarlo. E poi vedi se per caso succede qualche cosa. Guardate quanto la cazzata cosa dureva. L'avevo pagato così con l'integrato lì. Poi il motore che controllo lo trovo qui e vediamo cosa succede. Sì. Lì sto mettendo 1, 2, 3. Mi sono stati prendati, sono andati a fare la faccia di volte, ce ne sono alcuni che non sono suoi, capito, di questi qua, non so se l'ho notato. Già l'ho visto, l'ha fatto proprio ai lui, la verità. Ci sono anche due bobine da cambiare, mi pare, che sono nere, dove sono i veneti in occhiato, c'è stato un bel ritorno di frequenza con la parecchia, però ci hanno tappato parecchie, rimangono dissipatori in quei finali, io non so come diavolo, quante ci andavano, cioè, devono salvare per forza, gli hanno messo una colla a caldo, io ancora, non fa dico che ci sono, sulla schiena filtri ci sono uno, due, tre bombine, quattro bombine che sono andate, a volte non è no, però chiaramente controllo dopo un bel ritorno che può avere chiudere un po' di cose alle bucce, no? Io ho detto stasera santo, questo vado a farlo fare qualcuno, dedica bene un po' di roba. Però ne vale la pena, detto la verità. Ma se no, dimmi, se la spendo in moto, detto da, se ne prendi un uomo, poi ne ha portato la superficie, altro non bisogna fare. Però fare qualche cattivo, cambiare con l'integratino e poi vedi se andare avanti oppure fermati o... va bene. Sì, non perché come la recensione, poi vediamo un attimino se cosa sta succedendo, poi se inizia a cambiare qua, vediamo, adesso lo trovo io, adesso faccio un'altra cosa, vediamo. Va bene, mi prendi qua. Forse si è spostato, Giuseppe, mi prendi. Cappa, sono qua, mi sto ascoltando. Benissimo, ma non hai un controllo sotto del radio che sto regolando un apparecchio, ma seriamente? Seriamente il 93 è il segnale, però sente che c'è il carico. Nel senso che se l'abbiamo dato non viene sottratta. L'orizzontale c'è un po' di guadagno con quella gente, perché passi da Santiago 5, Ponte Milanove, a Santiago 9. Ma guarda così, la prossima volta ha migliorato? Sì, un po' è migliorato, sì, più che era. Va bene, va. Ma sono una prova pratica. Schiaccio, lo schiaccio. Tu, non mai. Sì, signore, non hai. Dell'epoca mia, dove? E a fare la prima cosa. operaio. Oh Antonio, dimmi. Ma vai. Perché non si sente? Già. Bene va. E come mi ascolti tu a me adesso? Adesso sei una bomba, sì. Niente. Ma di Ruggero. Ascolti bene bene, mi ascolti. Veramente meglio di prima, ma molto meglio di prima. Io come ti sto arrivando? Vabbè, ma chi sa, è un'antenna buona. Poi fra video si capiscono, Fabio Roggero. Caba, caba, caba Roger. Io sto utilizzando una video. Boh, secondo me, boh, io non lo so, boh, 200 migliori come antenne. Non guadagno di dB superiore, Tutte le volte che ho usato un assidio mi sono sempre trovato bene. Sono non assidio, ho una semidirettiva. Se vuoi racconto verso casa tua, Mi hanno per il culo. Adesso te lo faccio vedere, guarda il segnale adesso. Sì, quanto sono adesso? Vai, vai, figa, vai. Cioè, dimmi quanto è di segnale, adesso a parte gli scherzi, tu dimmi quanto è di segnale. Guardi, 9.25. Tu vedi che te lo faccio arrivare a 9.50? 9.50 non mi fai arrivare via che non mi senti. Io Marrano. Ah, io farò arrivare a 9.50. So fammi girare il rotore. Sì, dimmi. Che tempo io? La chimica. Cos'è? Antonio, grotte. Aspetta, sto girando la direttiva un attimino, vediamo se... Attimino, se sta salendo il segnale. Ma che attacco la direttiva? È tutta di... la diandola. Per fare direttiva valvola, mi pare. Direttiva valvola, guarda se non sta salendo. Adesso dimmi se non sta salendo, quanto sono adesso? Poi c'è in macchina. È in macchina, guarda un attimino, sto girando il rotore, guarda, adesso quanto ti sto arrivando, avanza. 9.40 quasi, Sta che di rinviare, Ti imbarcano un fiato come cosa? Attualmente ti imbarcano un fiato. Sei io. Che carrozzella è? Beh ragazzi, io faccio un visita del dottore, mi giro dall'altra parte. Buonanotte a tutti, statevi bene, divertitevi. E ci sentiamo. Ciao Antonio Grotte, Antonio Bombo, Gianni Doppio Rome, Giuseppe, Fabrizio, Gianni Capridue, Pomponio, ogni tanto ricordati di abbassare i fatti con la radio, lì. Se incollato mi dice che lo smettere, no, che sia un po' saturo. Ce la sei con la radio più scalda e più buono regolata. Ciao a tutti, buonanotte, divertitevela, ciao. Cambiamo l'altro, un abbraccio a tutti, ok, ciao. ciao Fabrizio, ciao Pronto, ciao a tutti, a Antonio Pombo. Mi saluto, arrivavo ai tuoi veicoli, non sa niente, non ho più voglia di parlare, ok, ti ascolto. Ciao Giacio, Padua. Scherzo, naturalmente, Pombo era proprio la cosa, pensaci bene, ciao, buonanotte. Io, per carità. Aiuto, domani tutti quanti andiamo a Finocchi, aiuto. Tu quante tu? A dove va che anda? A gioca, aiuto. Qua. Altro di un rotto, ma... Tanto lo Twitter non ce la febbo, la lancetta, è tutto digitale, quindi non mi è fregato. Zitto mi hai? Zitto già. Pongolo, a tu. Dimmi. Come ti arrivo io lì, nella tua zona? Com'è il segnale? Che se non... non per 25, se... se dove 25 segna qua. Però sei anche oltre quando parli. Sai che gli ha fatto quel lavoro che mi hai detto tu, Antonio, lo sai? La tormenta, l'Antonio. Cappa. Stai trovando bene? Era o nominava la cantante quando si sentiva con il tipo integrato, oppure mi dava la passata inserita. Appena inserivo il cavo e tornava direttamente il portante e non c'era verso di staccarlo. E poi c'è altre funzioni che mandano attenzione, mi ha detto qualcosa, mi ha detto che quello mi comanda gli altri tassisti, mi ha detto che dice prima bisogna cambiare quello e poi quegli altri tassisti che sono tutti dati messi così, senza dissipatore, c'è anche con la calda. Sarà con le bobine a ricostruirle, la fermetta che c'è dentro si riesce a trovarla, quello è casino, vabbè, quello è stato tutto derotto, non è che così non lo puoi tanto. Poi gli altri assisto che ci sono, c'è quello verde che gli hanno messo quelle cose in plastica, non ho capito perché, quello non so neanche che sigla è. Ma ne do più, non ci sei. Ma stai chiamando? Non ci sono, pensavo di stare tormentando. No, ma sono lì per lì, perché sono ben stanco. Vi saluto tutti e vi auguro buonanotte. Rimango in ascolto un po' e poi mi dormo, perché sono stanco brutto. Ci sentiamo alle prossime 10. Ciao a tutti. Ciao Gianni, buonanotte, ci sentiamo presto, dai. Avanti Antonello, molto pompa, io. Stanco, luci dagli ami che è uno di questi giorni, se fa bel tempo andiamo a pescare. No problem. Oh, no. Gaba. Sì. Danietta, a mignotte. Bella cosa. Posso venire? Ma se non porti soldi, no, ne hai soldi. Ma è quello che mi manca, no? Ci vogliamo quando si va a cosa, al lucciolo. Ci vogliono soldi e cose, e morale. Antonio, ma le bottiglie blu portate te le? Ma le sono già prese. Ma ecco, quindi ci va già con l'ora di... Ma adesso funziona così, se non le trovo, domani mattina c'ho mal di polso. Pure te. Va bene. Il corrispondente di quello integrato è CD 4011BE. Ci ha dato il numero al GDC, dobbiamo comprarti l'aglio qui. Tanto che lo segno, tanto anche questi sono piste incasinate da ricostruire, tanto c'è quel finale del cuore, hanno provato a attaccarlo, capito? Ma ora di disincarlo, lo cercavo di spiegare, infatti l'hanno disincarlo, l'hanno riattaccato, mezzo, cazzo, ne guarda un casino, chissà, un po' in me. Allora, CD 4011BE, è il corrispondente di quello, l'MC, prodotti secondo che c'è lì. C'è la prima oggi di Cicilia, li abbiamo comprati lì. Allora, CD 4011BE, giusto? CD, c'è scritto qua, 4011BE, il corrispondente di quelle, di quell'integrato lì. Infatti lo GPT ne monta 2 più il CD 4011, no, il 4017B addirittura, il GPT della Inter ne monta 3. Lava. Tu vai, chiedi gli altri dato che ci sono, io lo cambi e vedi cosa succede. Sì, ci vuole ricostruire qui vicino niente dalle piste, tanto perché sono partite. Sì, vabbè, già per quello gliela questione con le piste, no, ci sia. Le fai piano piano. Poi ricordare che quando è andato dietro c'è due adesso. Ti prendi grotte. Schiacciando il pedale per modulare e fa bene. Per modulare perché? Di notte, tutto, con un becchio. pedale. Così, perché in quel casino ci sono sopra, non hai visti quelli tagliati dei soldati? Sì, io ho visto. Via. Andare, Giuseppe. Tu quello Alan 100 Plus ce l'hai ancora? Ah, 100 Plus? No. Ma se non ti propone uno scambio, dai. E non ce l'ho io, non ce l'ho più. L'ho ritornato al padrone e ho fatto. Paruccia, vabbè. Va bene, ne sto cercando uno, se qualcuno ce l'ha, sappiate che sono pronto a spendere centinaia e centinaia di euro per averlo. Così che ti serve. Ah, GBC. Ma centinaia e centinaia di euro. Ma però non puoi preoccupare di dopo. No, io lo voglio usato, deve essere usato. Allora, centinaia e centinaia di euro. Certo va. Che sai, col piacevole che le senti quando moduli non ho mai usato. Qualcuno se l'ha dimenticata. Giacco di bocca, ma ho pennate. Ma che ci sono mai fare che li falco anche se li vuoi. Già ti ci vuole una cosa. Già avete cose bucaccione, no? Non fa. Tutto pulito. Alleluia. Ma ti serve veramente? Non ho capito. Mi serve veramente questo oggetto Plus. Iscriviti, se ce l'avete qualcuno che di Bregi lo prendo, mi serve proprio un accento Plus. Che cavolo. Cazzo. Però per voi io, mamma mia, che radio fleaga. Ti piace la modulazione di questa radio? Bello. Qua è un Alan 100 Plus abbinato a un M, aspetta, cos'è, come si chiama? Un M92 della ZG. Ho trovato la coppiata vincente, anzi il trio, perché ci ho messo l'antenna, la Minox S, e sono una bomba, guarda. Qua. C'ho il coso, l'M95 c'ho. L'M95, quello il MIPA. Qua. E ce l'ho uguale io, Anto. Io te l'hai sentito un sacco di volte. L'Alan 100 Plus, se tu gli tagli un diodo vicino al coso, al trasformatorino, dopodiché gli metti una copiata questo microfono qua, esce come mi stai sentendo adesso, che mi sembra sia abbastanza accettabile, no? Ah, buona, ragazzi, ma quando deve essere così fatto? Come non l'ho copiato? Sono così basse con le paracchine. Perché questo qua sta uscendo basso? Originale. Perché gli hanno messo un diodo sbagliato, secondo me, nel circuito c'è qualcosa, a parte che il mic che c'è è una scatola, pare un barattolo. Però a prescindere da quello, se tu gli tagli questo diodo, gli aumenta del 90% la modulazione. È abbinato a questo microfono qua, perché ad esempio se abbini il Proxel fa schifo lo stesso, se gli metti questo microfono qua esce bene. Magamma. Cazzo, secondo me io questa radio che è originale parlo, che è quello lì. Perché io l'avevo comprato ma ero rimasto deluso, ero rimasto. Hai capito? Ma per me è una porcheria di radio, cioè nel senso è un baracchino proprio ai minimi termini. Non gli puoi fare neanche nessuna variazione, gli puoi qualcosa a livello di lineare dentro, ma aumento di canali, come si dice, aumento di segnale di modulazione, tutte queste cose qua non le puoi fare. È un baracchino dove non puoi fare niente. Guarda, l'unico che ho visto modificato in un giorno, non so chi gliel'abbia fatto, ce l'aveva Gigi Vulcano. È una bomba però, Non lo so, comunque vanno molto meglio. Per prendere uno di quelli non ho sei? Quanto ne è? Positivi, cambio. tutto a posto, tutto a posto. Cos'è ancora mi stavi dicendo? Non vedo che cambiamo. No, ti stavo dicendo un attimo già, che è uno di quelli lì, funziona bene. Ehi, ehi, a tu, va benissimo, voglia. Fare una chiacchieratina così, anche oltre alla chiacchierata va benissimo. Buona mattina, devo andare in via Diat numero 12, dov'è a tu? Da chi devi andare? Da anche dottoressa devi andare. E là abbiamo la visita dell'azienda, quella che le succhia tutto il sangue. Dalla Cagliani devi andare. Non lo so come si chiama. E ho detto via Diat numero 12, però non so il nome. Ma la parte in giorno. Aspetta, non me lo ricordo. Adesso non mi ricordo bene, adesso no, se fatti guarda che non ci sono, No, ma poi altro, lì abbiamo il prelievo, poi dobbiamo andare via Carlo Felice e ci abbiamo tutto il resto dell'altra visita da fare da un'altra parte, capito? Quindi non credo di fermarmi da nessuna parte. Caramba, perché sono... Niente, e dopo le viste vista mi è sembrata una Ford Ka con la prima di uno, però non lo so se lì c'era dentro. Io quello che dico io stai attento, stai attento. C'è una cosa, saluto la vista. Ah, io devo stare attento, non lui. Non ti porterà, no? Io ho capito chi è. Maledetto Fabrizio, maledetto. Tu sei buono e poco. Sì, la tua è così. Cosa? La porto qua? Sì. Chiama. Ah, la tua è. Allora adesso sappiamo dove rubare un'antenna, Fabrizio. Fabrizio, se lo dico io, dove rubare la pittura di Enrico. Dai, i cani che ci ha portato, le quali malaffa che si macchiano. Smontabile, cazzo. Cos'è, hai detto, Maximiliano? Ho detto che quella macchina lì è tutta smontabile, tutta in plastica. Ma si vede gli avvirà, sì. Gli avvirà, gli avvirà. Secondo me, la volta che ce l'ha portata, se te lo chiesa. Perché se ne fate via con il vava. Questo microfono? Oh, che sacca! Ah, vecchia è. È importante che cammini. Pagala. Ma si assomiglia a te, Leo? La massa te le varia, a te a Massimiliano. Però Leo Cino c'ha un'aria di coso. La somiglia un po' al Natalino io. E chi se ne vede? Un'aria, cioè l'ho visto in foto là, l'ho visto in foto a Leoncino. E così, cioè dalla foto mi sembra che c'è un'aria di Natalino. C'è t'offesa, Oh, quello che la parte mia, io, buon proseguimento. Ah, qua, ciao Fabri, buona serata, buona continuazione, ci sentiamo. Vai a tu. Fabri, dai, ci sentiamo. E buona continuazione. Leoncì, ma non si vende, avete delle pezzine in vetrina, sì. No, sono colicato io, ma Giulia, la massa te ne vai a cazzo. Attenzione, no, non fate, non fate la pugnetta. Ma non è vostro, tu lo sai che no. Che non ne posso io, ma ne posso fa. Così è. Poi vai anche un buco di lumuro, no? E siamo in fascia protetta ancora. Ma stiamo scherzando, le ho aspetta un attimo che controllo il terremoto. Ma siamo pulendo, le ho ucciso. E te lo so, e poi non è con Massimiliano, no, e già un giorno ci conosciamo, se lo può anche permettere, cioè abbiamo una certa confidenza, no? E non è quello il problema. Ma allora conosce Massimiliano. Massimiliano, guarda me, scherzando, io Massimiliano lo conosco più di 20 anni. Vero è Massimiliano. Capo, allora, vi preso, signori belli, anche io fa un po' l'abbandono. Mi stava dicendo Massimiliano, da quando ti conosco io a te, mi dico io ci conosciamo 20 anni. Ehi, può essere, Leo C. Allora, vedi un po', vedi a tu. Su per giù, Massimiliano è un po' più grande, di anni ne ha un po' più di me, però quando frequentavamo con lui ce n'era, erano altri tempi. Sì, senti, la ultima volta quanti anni c'è Massimiliano? Forse sta confondendo qualche altro Massimiliano. Oh, Leoncì, io non ti ho mai visto a te, solo in foto. E la matta te ne paria. Dicevo che tu ti stai confondendo qualche altro. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. già c'è la barba bianca, ma se non c'è un mese di manco. 5 anni, 46 anni c'è, giusto? Da 5. Ma faccio vedere, non è almeno 10 meno di 7, no? No. 10 no, 37 sono tu. Cappa. E allora dilli, quando ci fanno insieme, con Massimiliano, Massimiliano, io, Massimiliano, ecco, Claudio Sparviero, Torino Cavazzacchi e tutta quanta l'altra greppa, vero Massimiliano? No, no, no, ti stai sbagliando, Leonci. Sto sbagliando? Positivo, ti stai sbagliando, non sono io. No, no, sto benissimo, ma ci vediamo. Adesso ti stai sbagliando, Leonci, hai fatto una gaffa. E vabbè, comunque, a parte quello poi, no, diciamo che, vabbè, con Massimiliano ci conosciamo, però adesso siamo da molto senza vederci e dunque adesso no, non è che ce l'ho proprio presente, capito? Però prima ci vedevamo, sì, però hai capito, abbiamo bevuto anche assieme. Non lo so, ma c'è da dire che dici? Ma non me lo ricordo, che, non lo so, provaci pure qualche volta di sabato con noi a Pietralesini, può essere, boh, non me lo ricordo. No, no, no, ma tu no. Però io non mi ricordo, tu, la verità. Cavagava. Dicevo, tutto a posto, a tu, lì da voi. Io già. Mi ha tanto. C'è qualcuno? Meno male si campa, va, campionino. Brava, si tira, che da, è vecchio. È vecchio, nient'altro. Nient'altro entra anche qua, entra. Ah, va, è bucato, poi c'è il soffitto. Tu non so cosa fai, va, qui c'è una matretta che viene qui, dimmi dall'altro. Ma vedi che si sente, ha detto nulla. È addormentato, ho detto che è sdraiato. Che magava. Ma... Così ho finito la bomba e per cui in piedi. Ma già ce l'ha pigliata una volta, ma non per colpa mia, no. Tanto tempo fa è successo, quello per un camionista, si è cavare un camion. Mi è spezzato le dita, cazzo. E anche l'altra volta mi ricordo che avevo scelto quelle bombe addosso. No, per bombe, facevamo sistemate noi, poi non tanto quanto io, quel pirla di camionista l'avevo messo dentro, uno che ha un po' carito un carotto, se ne è parata tanto la cazzata, ne è parata. È positivo, positivo, va bene, va bene. Cosa faccio adesso? Sì. Aiuto, che mi pare mi faccio una, va. Cosa? Sei cagata. No, non si pulire con la mano. No, la buca c'è con il fave, è un casino. C'è con il mezzo, ma non è drogata, va, però. E mezza vergine, là, non è problema. Vai, oggi. Papà, papà, là. Signori, io vi saluto, fate un buon 144, un buon coso per domani e ce la risentiamo tutte le prossime. Ciao, correti per me. Papà, cos'è che ci fate con lo stop 84? Cosa hai detto? Ho detto, fate un buon 144 e un buon trabacco per domani, cambio. Ragazzi, adesso è un autocross. Oddio, Leonci, dove la descendiamo? Gappa, gappa, dai, ciao Leonci, buon 144 anche a te, dai. Quando lo farai, non lo so, speriamo più tardi che mai. E ci sentiamo alle prossime. Va, è attenzione a 541, eh. Antonio. Buone. Sei andato, hai messo le cuffiette. Ciao. Saluto. Ciao. Io, ciao tu. Ciao Anto. Amore, come stai? Babbo, sono uscita fuori. Ah, uscita fuori? Io. Sono uscita fuori e babbo mi ha girato. Paolo, come stai io? Come sta per Paolo? Sta bene, sta bene. Adesso ciao, ti saluto, ciao. Ciao, nel quotidiano veniamo a trovarti, Ti ho visto che eri proprio piccola, piccola. Zio, ti saluto, bullone piccolo. Sì, ciao. Qualcosa, però adesso Io non ho capito, ce ne sono vari prezzi, arriva fino a 120 euro l'uno, sempre lo stesso finale, boh, io non ho capito, non lo riesco a cercare, boh. No, può darsi che, boh, so, qualcuno chi ha di più. Non so, quelli che c'erano mi sembravano intorno ai 120 o 110 l'uno, ce n'erano 4. Certo. Ragazzi, ma cosa era corrente da casa? No, com'era? 112, e l'alimentatore è il switching. Però il mio a 25 ampere lo sapeva un po', capito? Ci voleva un 30 ampere. E Guido ci hanno appoggiato, ma l'ha asciutto. Era sotto il baracchino, ma che gli ha l'ingresso. No, cioè, l'ho provato con quella 48, c'ha dei picchi spaventosi, ho aumentato poco poco, ma proprio un'idea, lo sai, davvero un'idea. Ho fatto... Ma tu? Niente, adesso mi ho avanzato, ha fatto volare il gatto. Oh. Sì, no, poi la sapete. Fatto male. Prende le orecchie, cazzo, la coda, gliela gira, la pelle, gliela stringe. Guarda, è una cosa impressionante. Ma attenzione, la gente è pigliata, secondo che cazzo trovi. Secondo che cazzo trovi la cucchia già male, No, guarda, questo è già bravo, si può fare tutto. Caffa, non si fa così. Il poverino. Ma ti ha fatto molto male. No, molto male, no, l'ha fatto volare. Ma è vivo, sì. E allora, uffa, il gatto c'ha 7 guitti. Cos'è ti stavo dicendo? Adesso vediamo cosa ci vuole a sistemarlo, capito? Secondo cosa ci vuole lo sistema. Ne vale la pena. Fermalo. Io ce l'ho qua, è fuori casa, lei, bella. E anche la mia è coricata a un fianco. Ma chi tu sei sboccato ancora, chi dietro? Ma dove ne avete? Ma ne avete due, non lo sapevo. Uno è mia sorella. Ma chi sono chi tu, chi su Maru, così è? No, là, no, in Maru non vuole arrivare. Che è bravissima, c'è un affetto, c'è, guarda, se ce l'avrebbero voluti certe persone, come sono bravi loro, proprio sono bravi bravi, ma all'inizio come era venuta qua era un pochino, adesso che ci ha fatto conoscere le cose, bravissima, e a lui che lei, Giulietta e Romeo, ascolta, ma quel baracchinetto tuo, le bande laterali ce li ha? No, non ce li ha. Lo volevo provare, non è. Va bene, niente, ok. Non è che era allineato per quel baracchino. No, volevo provare a andare se ce l'aveva il tuo, me. Non è capito, ma è cosa, lo zio, normale, le ferme, c'è. Vabbè, io non... Va. Normalissimo, c'è display blu, coso, frequenzimetro, microfonino, ma l'hai visto come sono fatte? Io già l'ho visto, ma come ce l'ho fatto in macchina? Ma no, questo è... che dico? Gala, ma tu c'avevi un altro baracchino che andava molto bene, quel... come che si chiamava? Quell'Elbex. Quello andava molto bene, mi ricordo, non ce n'è più. E quello lo uso, ma dove la sera uso questo, uso perché è più son, è più tranquillo, capito? C'ho quello, c'ho il 550 Power della Intec. Cara gara, io ho due Musicom MB40 con frequenzimetro, è tutto a barava, 5 bande. Ora adesso se trovo me lo vendo un centinaio di euro. Come? La Intec che sono, MB40. No, che c'è la B2 sempre. Ciao. me ne hanno regalato un altro dentro la scatola, cioè aveva il finale bruciato. L'ho portato da Gavino, gli ho messo il finale nuovo, 19 e Santa Roma. Qua avevo tutta, io l'altro uguale, uno me lo vendo. Più nuovo, o no? Vendo quello che c'è Gavino. C'ha l'attacco a 6 punte, il microfono suo originale, staffa, benaglietti, tutto c'ha, capito? Tranne vabbè, non c'è il cavo dell'alimentazione. Vabbè, io sono dello spedito, cos'era un po' di anni fermo quello là? No, non era un po' di anni fermo, stavo andando, ce l'avevano in un camion e non capivano come erano le bande, capito? E non le capiva niente quello che ce l'aveva. Non so forse cosa è successo, gli hanno attaccato un lineare con troppi batti e gli hanno bruciato il finale, capito? Ho detto accende ma non funziona, l'ingestione ce l'ha ma non funziona. Se lo vuoi te lo porto, te lo regalo, tanto io non me faccio niente, portalo, lo guardiamo. L'ha controllato dal vino, ha cambiato il finale e funziona bene. Certo, il finale di trasmissione. Perché il prefinale non ha bruciato perché c'era la trasmissione, se no ha bruciato il finale di trasmissione proprio. E quello lì gliel'ha cambiato, gliel'ho messo, siccome è monta al 19,69, però è omologato, capito, perché va da 1 watt a 4 watt, anche se c'ha tutte le palle, hai capito? C'ha la scatola, tutto. Ma è nuovo, nuovo. Tanto nuovo, nuovo, nuovo, c'è tutto il libretto con le istruzioni dentro, lo schema elettrico, cosa più è ancora, c'è il certificato di garanzia, c'è tutto, vabbè, anche la garanzia è scaduta, però. Vabbè, certo, già di canno, Mi sembra che sia del 98, mi sembra, o 96 o 98, ma ti dico che è un gioiello, nuovo nuovo. C'ha frequentimetro a fianco allo smitter e niente. Bello, là, 5 bande, A, B, C, D e... faceva la Intec come marca, cioè sopra c'è scritto Mobico e sotto dove c'è il Mickey Green c'è scritto Intec MB40, è come l'Alan 48 lì, per intenderci, come grandezza è uguale all'Alan 48. Ah, però ti ho detto io chi lo vendeva e cosa ne so pure tu, non lo so. La scatola c'è scritto simbolo del rivenditore. E boh, c'era Gavino e il laboratorio, tutta la busta con la scatola, non lo so, adesso usaci. Ciao. E davano bene, dai. Ciao. Ma sai tu, Giacomo, che stavo dovendo? Ciao Tomas. Positivo. No, io l'unica cosa che gli ho fatto fare a questo che c'ho io, di Mobico, gli ho fatto mettere lo spinotto a 4 punte, capito? L'ho fatto attacco midran, così ci posso mettere qualsiasi microfono. Ma capi non te l'ha fatto? Gara. Pure lui già. Già ce la pensa a fare quelle cose. È positivo, anche in linea retta mi ha messo a posto lui. È durato una riga, poi si è bruciato. Ha trovato i finali. L'ha sistemato perché non funzionava, l'ha sistemato, c'era un diodo bruciato, gliel'ha sostituito, ha cambiato una resistenza, l'ha provato, andava bene, l'ho portato a casa, l'ho provato, andava bene, l'ho portato di là e è uscito un fumo. Perché non bisogna esagerare. Massimiliano, dai, tutta l'ora qua, dai. Ce la risentiamo, Massimiliano. Ciao. ciao a tu, salutoni a Correa Familiare, a tutti, e ci sentiamo, buonanotte e buon lavoro per domani, dai, mi ha fatto piacere. Ma fa proprio piacere anche a me, dai, ma ce ne sentiamo alle prossimine, ciao ciao, buonanotte, buonanotte a tutti quanti da la ciao a tu, di nuovo, dai, buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti.